Nella vita sono in sbattimento, fra, e lo sai che non ci sto più dentro, inseguendo sti pezzi da cento, fra, e non vi odio perché non c'ho tempo. Sai di cosa avrei bisogno io? C'è bisogno d'amore, sai zio. Non odiarmi perché vivo a modo mio. C'è bisogno d'amore, sai zio. C'è bisogno d'amore, mio Dio. Mi innamoro ogni sera, poi addio. C'è bisogno d'amore, sai zia. Portami sto amore in camerino, pure vai via. E non so se amore è vero, mi abbaglia. Ste tipe corrono dietro ai miei soldi come fai qui Italia. Questi rapper che mi odiano da un po', guardo loro dall'hublot, faccio ciao dall'hublot. Sopra il beat è il ritorno di Kingue. Una tipa cubana, frate, mo sono bilingue. Tu mi infami, ma vuoi stare al posto mio? Ed è anche un po' di tempo che non chiavi, sai zio. Ho bisogno d'amore come un hippie, senza un poco d'amore qua strippi. Perché nel mio paese solo un pazzo può vivere, perché nel mio paese non c'è un cazzo da ridere. Sai di cosa avrei bisogno io? C'è bisogno d'amore, sai zio. Non odiarmi perché vivo a modo mio. C'è bisogno d'amore, sai zio. C'è bisogno d'amore, sai zio. C'è bisogno d'amore, sai zio. C'è bisogno d'amore. C'è bisogno d'amore. Se avessi un euro per ognuno che mi odia, non andrei in giro in moto, zio, andrei in giro con Gordian. E già la vita è corta, fai la fattura e conta, prima di fare un buco come il Costa Concordia. Tutti questi lupi vogliono il mio successo e vogliono sdraiarmi. In pratica sono delle gruppi, e tutte queste gruppi che vogliono sbranarmi il conto. In fondo, in pratica sono lupi. Vedo che mi odi tanto e che ce la metti tutta, ma ho sviluppato la pazienza di Buddha. Mi senti se accendi la radio? Ho bisogno d'amore come appena uscito dal gabbio. Rispetto tutti i gusti, ma questi belli imbusti mi sa che pensano più a me che alla pussy. Voglio le bionde, le more, sai zio, che mi facciano fare l'amore da Dio. Sai di cosa avrei bisogno io? C'è bisogno d'amore, sai zio. Non odiarmi perché vivo a modo mio. C'è bisogno d'amore, sai zio. C'è bisogno d'amore, sai zio. C'è bisogno d'amore, sai zio. C'è bisogno d'amore. C'è bisogno d'amore, sai zio. Tu dammi un po' d'amore, mi bastano due ore. E tutto questo odio è perché sono sempre fuori, tu sei sempre sobrio. Ma non posso aiutarti, sai che c'è, se c'ho 900.000 follower in più di te. Ho bisogno d'amore, sai zio, perché senza si muore, sai zio. Fa che l'amore, non fa che la guerra, che serve a ripopolare la terra. Mettete i fiori nei vostri cannoni, basta che non mi rompete i coglioni. Metto un po' di zucchero nel pezzo, così si alza il grado, si alza il prezzo, sale presto. Jake pensa al cash e al business, sesso e Guinness, fra, zero stress e fitness. Sai di cosa avrei bisogno io? C'è bisogno d'amore, sai zio. Non odiarmi perché vivo a modo mio. C'è bisogno d'amore, sai zio.